Allora, in occasione di Hanukkah facciamo una lezione straordinaria su... Qui abbiamo raccolto alcune fonti su vari aspetti, su un aspetto specifico della festa di Hanukkah che non è quello che sempre si sottolinea, delegato alla Seudah, se c'è una mitzvah o meno di pasto festivo durante Hanukkah. È un discorso su cui ci sono alcune discussioni. In generale, il tipo di cibo particolare è sempre un'indicazione di una festa ebraica. C'è la famosa battuta, cos'è la... che festa è? Beh, hanno voluto ucciderci, non ci sono riusciti, adesso mangiamo. Più o meno così, no? Però la verità è che abbiamo anche nell'Halakha riconosciuta diversi aspetti della Seudah e del cibo specifico anche, molto spesso. Per esempio a Rosh Hashanah abbiamo i famosi simanim, i famosi del seder, no? Cosiddetto seder di Rosh Hashanah, dove si mangiano cibi specifici che ricordano il simbolismo del giorno e di auguri che ci vogliamo fare. Prima di Kippur è una mitzvah a mangiare, una seudah, una importante seudah. Abbiamo la mitzvah di mangiare nella sukkah, abbiamo la mitzvah di fare il mishteh, il banchetto di Purim, abbiamo la sera del seder che abbiamo alcuni cibi che dobbiamo mangiare, le altre festività, Shabbat, eccetera. Ora, questa prima fonte qui al numero 1 riguarda la mitzvah della Seudah in generale nei Moadim, nei giorni di festa solenne. Questo è tratto dal Rambam, dall'opera di Maimonide, Rambam, nelle sue Hilchot Yom Tov, le norme di Moed, Yom Tov. Perek Vav, sesto capitolo, lui scrive così: Shivat Yemei HaPesach, durante tutti i 7 giorni di Pesach, Vishmonat Yemei Chag HaSukkot e tutti gli 8 giorni di Sukkot, cioè i 7 giorni di Sukkot più Shemini Atzeret. Hayav Adam liyot bahen sameach vetov lev. C'è un obbligo che la persona deve proprio sentirsi gioioso, felice e contento. Esatto. Shenemar vesamacht vechagecha. Come cita subito Pasuk che diceva David, vesamacht vechagecha. Gioisci, devi gioire nel tuo chag, nella tua festività. Il Rambam poi specifica, basandosi sul Talmud e tutte le fonti precedenti a lui, quale è il modo, la maniera per... Dici, gioisci, vabbè, per ognuno la gioia può essere diversa, no? Quindi si specifica anche la maniera. Keitzad? In che maniera? Allora egli scrive, Haktanim, per i bambini piccoli, noten lahem kelayot vegozim, gli si dà delle noci, delle cose buone che possono fare loro, metterli in un'aria di festa, che cose che normalmente non ricevono. Hanashim, per le donne, ogni marito deve comprare per sua moglie con Elen Gadim, nuovi vestiti, tachshitim naim, buoni, gioielli, kefi, kol echad kefi mamono, ognuno secondo le sue possibilità. Anashim, e per gli uomini ochrim basar, in particolare mangiare della carne, veshotim yain e bere del vino, cioè qualcosa che è più gradi che è gradito e che non è che si fa tutti i giorni, shen simcha ela bebasar veyain, poiché le fonti dicono che la gioia c'è solamente quando c'è la carne e il vino. Ok, questo dice Rambam, adesso non entriamo nello specifico di queste varie. L'idea è che ognuno, secondo il suo modo, deve gioire. Nella prossima fonte qui citata, che è Bet Yosef, Bet Yosef è l'opera dell'autore dello Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, è un'opera di commento sull'opera del Tur, a sua volta opera alachica. Bet Yosef è un'opera molto vasta, diciamo in un certo senso lo Shulchan Aruch, dallo stesso autore, è come quasi un bignami del Bet Yosef, diciamo così. Per questo quando si studia lo Shulchan Aruch è bene sempre guardare le fonti precedenti, perché lo Shulchan Aruch è molto scritto molto molto in breve. Sono molte fonti che dicono che non si può, è vietato decidere l'Halakha solo leggendo lo Shulchan Aruch e applicando subito l'Halakha. Bisogna conoscere le motivazioni che ci sono dietro, gli approfondimenti, eccetera, per capire meglio come applicare l'Halakha. In ogni caso, il Bet Yosef, Siman Tafresh Kaf Daled, nel capitolo 624, nella sezione Ora Chaim, dice così: Bemotzae Yom HaKippurim, quando esce Kippur, Yotzet bat kol veomeret. C'è una fonte che dice che dopo Kippur c'è una voce dall'alto, bat kol, cioè una voce celeste, che dice: Lech echol besimcha lachmecha, vai a mangiare in gioia, in contentezza il tuo pane, ushte belev tov yenecha, e bevi con contentezza il tuo vino, chi kvarratza Elohim et maaseicha. Citato da un versetto che dice: il Signore ha già accettato, diciamo, le tue azioni, quindi riferito in questo caso a tutto il servizio di Kippur. Dopo Kippur c'è l'indicazione: vai a mangiare in gioia e contentezza. Velachen yochala adam yishteh belev sameach, dice il Bet Yosef, e per questo motivo anche non solo prima di Kippur è mitzvah mangiare, ma anche all'uscita di Kippur è bene fare una seudà e gioire con proprio mangiando e bevendo. La terza fonte che qui è citata è la Megillah di Ester. Cosa c'è scritto sulla Megillah di Ester nel nono capitolo, verso la fine? C'è scritto che Mordecai e i Chachamim della generazione, con il coinvolgimento anche di Ester stessa, fecero l'istituzione della festa, e dice: Lekayem alehem, hanno accettato su se stessi gli ebrei liyot osim et yom arba'a asar lechodesh adar, che il 14 del mese di Adar e anche il giorno successivo, vet yom chamisha asar bo, in base poi anche alla città, che città è, eccetera, yemei mishteh v'simcha, che siano dei giorni non solo di simcha, di gioia, ma anche di mishteh, di banchetti, un mishloach manot ish lereehu, in cui si inviano anche dei doni di cibo uno all'altro. Diciamo che da queste fonti abbiamo visto che comunque non c'è una festa che non è associata con il gioire attraverso il cibo. Shavuot è scritto anche perché fa parte. Credo che Rambam cita anche Shavuot, ma comunque Shavuot è ancora più chiaro di Pesach e Sukkot, perché c'è una discussione nella Gemara riguardo ai Moadim, a differenza dei Shabbatot, se c'è la mitzvah diciamo, del compiacimento personale, così come c'è a Shabbat la mitzvah di Oneg Shabbat, no? Come si dice, Oneg, diciamo piacere, eh? Delizia, ecco, Goduia. sì, si discute se c'è questa mitzvah anche riguardo il Moed, i Moadim, e su Shavuot non c'è discussione, tutti sono d'accordo che c'è. Kule alma Moedim beShavuot ba'inan nami lachem, cioè tutti sono d'accordo, tutti i Chachamim, che a Shavuot c'è una mitzvah particolare di lachem, lachem nel senso lachem citato dalla Torah, cioè che non è solo per Hashem, è anche lachem, anche per voi, cioè anche un giorno per noi, per gioire, quindi diciamo tutti i Moadim rientrano in questo, e sembrerebbe che l'unica eccezione è Hanukkah, perché Hanukkah non c'è, diciamo, non sembra che ci sia la Seudat Hanukkah o il Mishteh come c'è a Purim, non è che c'è una ufficiale un ufficiale pasto, un ufficiale banchetto di Hanukkah. Sì, ci sono dei cibi tipici. Tutti gli ebrei usano mangiare cibi che sono fritti nell'olio, molti usano cibi a base di latte per la storia di Yehudit che ha fatto mangiare il formaggio a quel generale che poi lo ha ucciso, eccetera, eccetera. Però non c'è indicato esattamente che è un obbligo. Non solo non è indicato esattamente che è un obbligo, ma nello Shulchan Aruch, che è qui citato nella prossima fonte, Shulchan Aruch su Hanukkah, se voi vedete, noi leggiamo così, nel capitolo Tavreshayin, che sarebbe 670, sempre nell'Ora Chaim dello Shulchan Aruch, l'autore dello Shulchan Aruch, che è lo stesso che citavamo prima dal Bet Yosef, dice: Ribui ha-seudot shemarbim bahem, il fatto che si fanno molti pasti durante Hanukkah, hem seudot ha-reshut, sono pasti volontari. Reshut vuol dire letteralmente permesso, cioè è una cosa che non è mitzvah, ma è reshut. Reshut in contrasto a mitzvah, cioè mitzvah obbligo in questo caso, e reshut volontario. Dice: questi sono pasti, non sono obbligatori, quindi sono reshut, sono volontari. E dice esplicitamente che non c'è la mitzvah, l'obbligo di fare il banchetto a Hanukkah. Lo dice nelle parole, diciamo, usando quello che sì, invece è obbligo a Purim. Dice: Shelo kevaum, non sono stati fissati questi giorni per essere osservati con Mishte Vesimcha. Cioè l'obbligo di Hanukkah si esprime nell'accensione della Hanukkah, dei lumi di Hanukkah, e non nella Simcha e nel Mishte, nel banchetto. Sì, certo, è un momento gioioso e quindi usiamo stare insieme, mangiare bene, eccetera, ma non è obbligatorio come lo è nelle altre occasioni festive. Questo dice Strano. lo Shulchan Aruch, ed è strano Potrebbe effettivamente. essere più gioioso, ci siamo salvati Perché non c'era. dall'annientamento, Allora, la domanda di mentre William: perché, se è strana questa cosa, perché essendoci salvati da molte problematiche serie, perché da Hanukkah, perché a Hanukkah non c'è la stessa idea della Seudah come c'è nelle altre festività? Purim non è comandato dalla Torah. Anche Purim non è comandato dal Torah, ma c'è la mitzvah del Mishteh. Allora, proprio questo è il tema della lezione. Perché a Hanukkah non ci sono le Seudot? Però concludiamo la citazione che abbiamo qui. Sullo Shulchan Aruch c'è la nota del Ramah, Rabbi Moshe Iserlish, che è l'autorità ashkenazita che scrive le sue glosse sullo Shulchan Aruch, grandissima, di altissima autorità. Lui dice: Hagat Ramah, la glossa del Ramah, v'yesh omrim, c'è però chi dice Yesh ketzat mitzvah, che c'è un po' di mitzvah. Adesso dobbiamo definire che vuol dire mitzvah o non mitzvah. Un po' di mitzvah, ketzat mitzvah, beribuya seudot. C'è un po', diciamo, di mitzvah in questo fare più banchetti, pasti festivi a Hanukkah. Per quale motivo? Mishum shebeotam hayamim haya Hanukkat hamizbeach. Perché non solo c'era il miracolo dell'olio che noi ricordiamo attraverso la Hanukkah, l'accensione, ma c'era anche l'inaugurazione del Beit HaMikdash, quindi del Mizbeach, di tutto il servizio del Beit HaMikdash. E di conseguenza il Ramah dice c'è anche un'idea in questa gioia. Ora aggiunge e dice un'altra cosa molto importante. Se noi abbiamo una Seudah che non siamo sicuri se rientra, diciamo, nella specificazione alachica di una Seudah mitzvah, cosa possiamo fare? Possiamo fare una escamotage, tra virgolette. Nel positivo possiamo aggiungere parole di Torah, lodi e canti ad Akadosh Baruch Hu, e attraverso questo lo trasformiamo in una Seudah di mitzvah. Anche se non è una Seudah che è assolutamente obbligatoria, può diventare una Seudah mitzvah. Ecco che La cosa dice. soggettiva diventa. Esatto, quello che dice adesso era mai questo. Venohagim, e si usa quindi lomar zemirot vetishpachot baseudot, shemarbim bahem, che durante queste seudot si loda e si ringrazia e si canta, ve'az haveh seudat mitzvah, e allora diventa una seudat mitzvah, anche se non è richiesta in maniera assoluta, ma tu volontariamente, in maniera soggettiva, puoi farla diventare. Allora, però, vediamo che tutti sono d'accordo che c'è una differenza di base tra Purim e Hanukkah. Non parliamo dei Moadim che sono voluti dalla Torah direttamente, ma anche tra le feste istituite dai Chachamim, cioè Purim e Hanukkah, c'è questa differenza, che tutte e due sono state istituite per la salvezza di Israele, come diceva William. E nonostante ciò, a Purim c'è la specificazione esatta, Yemei Mishteh v'Simcha, giorni di gioia e di banchetti, e a Hanukkah non c'è questa specificazione. Allora, qual è la motivazione e qual è invece allora l'aspetto speciale, diciamo così, di Hanukkah? Allora, in realtà, a Hanukkah si festeggia qualcosa che forse non si festeggia in nessuno degli altri Moadim in cui noi festeggiamo la nostra salvezza. Festeggiamo un miracolo della sopravvivenza di Am Israel. Perché effettivamente in tutte le altre feste festeggiamo la sopravvivenza di Am Israel a livello fisico, bravo, della nostra sopravvivenza nel senso più letterale della parola. Che come dicevi prima, ci volevano annientare e siamo sopravvissuti, grazie a Dio. E questo è il motivo base della festività, delle altre festività. Roma direbbero alla faccia vostra, mangiamo e A beviamo. Purim? Ma scusa, Sì. possibile. Però penso dal lato opposto, si può dire che la battaglia di Maccabim non è un fatto inusuale nella storia del popolo. Tante battaglie sono state fatte. Questa è una delle E battaglie. allora? Dunque, non è obbligato Ah, perché non festeggiare, è, diciamo, mi spiego. esclusivo. Sì, non è Ok, una allora William cosa dice che essendo che il che la popolo. battaglia non era esclusiva, nel senso che nella storia ne abbiamo avute tante, allora non, se no saremmo tutti i giorni a fare Seudot. Ok, questo è un punto di vista. Questo è un punto di vista. In generale, tornando alla differenza tra Hanukkah e Purim, Purim, la mitzvah centrale di Purim qual è? La mitzvah, l'obbligo centrale di Purim qual è? La Megillah, La lettura della Megillah Megillah. Tester. La lettura della Megillah è la storia della nostra salvezza dalle mani di Hamane, di Achashverosh. A Pesach, la Gadà si accentra attorno al racconto della nostra salvezza dalle mani del faraone, di Ah, Parò. sì. Hanukkah si sottolinea più che altro, e anche la mitzvah di Hanukkah soprattutto, quella l'unica mitzvah in cui si dice la Berachah di Hanukkah, Asher Kedeshanu, Mitzvotav Tzivanu, è l'Hadlik Ner, è per l'accensione del lume. È una cosa che festeggia un miracolo spirituale, cioè invece di vedere il punto di vista come nelle altre feste, dal quale il punto di vista, diciamo, umano, che noi siamo stati salvati dalle mani di altri esseri umani, dalle grinfie di altri esseri umani. A Hanukkah sottolineiamo il nostro rapporto con HaKadosh Baruch Hu, che lui ha fatto per noi un miracolo, una cosa spirituale che noi abbiamo vissuto, e questo soprattutto è l'aspetto più sottolineato della festa di Hanukkah. Anche se nella Tefilah abbiamo detto stamattina Alla Nissim, abbiamo parlato dei miracoli, abbiamo raccontato nel brano Bimei Matatya, Ben Yohanan Kohen Gadol, abbiamo raccontato lì il miracolo della salvezza della guerra, la battaglia nella quale siamo stati vittoriosi. Però la mitzvah, come dicevo, la mitzvah centrale di Hanukkah è quella spirituale, cioè quello dell'olio. Posso chiedere una cosa? Scusa, perché 8 giorni? Aspetta, chiedo scusa, Ha però detto adesso chiedere. rimaniamo nel tema. Va Dopo bene. la lezione facciamo Ah, domande. En baia, perché gente deve andare via tra un ok. po'. Va bene. Allora, la prossima fonte dice così: è tratto dal trattato di Shabbat. Nel trattato di Shabbat abbiamo una serie di brani legati alla festa di Hanukkah e sono introdotti con la seguente citazione che dice: Mai Hanukkah. Che cosa è Hanukkah? Cioè, per quale motivo è stato istituito, dice Rashi, al Eisen Nes, per quale motivo è stato istituito il evento, la festa di Hanukkah. Dice Sheamru Chachamim, i maestri dissero, Bekafe Bekislev, nel giorno 25 del mese di Kislev, iniziano Shemone Yemei Hanukkah, 8 giorni di Hanukkah. Shelo maspidim velo mitanim bahem. Allora, effettivamente, questi sono giorni in cui c'è una fonte antica, si chiama Megillat Taanit, e che qui è citata dal Talmud, che dice che questi sono giorni in cui non si fanno i discorsi funebri e non si fanno digiuni. Per quale motivo? Spiega la Gemara. Kshenichnesu Yevanim laHeichal, quando i greci sono entrati nel Bet HaMikdash, Timeu hanno reso impuri, Kol Hashemanim, hanno reso impuro tutti gli oli Shebahechal, che erano presenti nel Bet HaMikdash. Ukeshegavera Malchut Bet Hashmonei, Unetzachum, quando la mano forte l'ebbero i re della casa dei Hashmonei e sconfissero i greci, allora Badku cercarono, Velomatsu, e non trovarono, e la Pachechach el Shemen, solamente se non che una unica ampolla d'olio, Shayamunach bechotamo shel Kohen Gadol, che ancora era posto nel suo luogo originale con il timbro, cioè con il sigillo del Kohen Gadol. Velo hayabo ela leadlik yom echad, ma in esso non c'era olio sufficiente se non per un solo giorno. Nasabones, avvenne con questo olio un miracolo, veidliku mimenu, e dallo stesso olio accesero la menorah shemone yamim, 8 giorni. E le shanacheret, dice la Gemara, l'anno successivo, che va'um, fissarono quei 8 giorni le yamim tovim, facendoli diventare dei giorni festivi, yamim tovim, come yom tov, behallel u behoda'a, nei quali si loda e si ringrazia. Qui noi parliamo della sconfitta, sì, ma poi parliamo soprattutto del miracolo dell'olio e la festività che ne segue. Hai dato la risposta. Allora, Pri Hadash, un'altra fonte di un maestro che commenta lo Shulchan Aruch, Tafre Shai nel capitolo 670, dice... Ensevara, non c'è, diciamo, una idea, Sheikar Yom HaNitzachon Shenachum Oivehem Lo Yikveuhu Ledorot. In altre parole, il giorno in cui hanno sconfitto e si sono riposati dalla guerra, dalla battaglia, che non sia anche questo un giorno fissato come festa per le generazioni. Cioè dice, anche il primo giorno di Hanukkah è un giorno che si festeggia soprattutto la sconfitta, e gli altri giorni si festeggia là il miracolo dell'olio, che è durato non un giorno ma 7 giorni in più, diciamo, rispetto a quello che avrebbe dovuto. Ecco. Allora, in realtà, approfondendo questo discorso, possiamo trovare delle fonti che legano il fatto che non c'è la mitzvah di Seudah, di pasto festivo a Hanukkah, come c'è nelle altre festività, e il fatto che si sottolinea la festa del miracolo dell'olio più della sconfitta militare, sono due fatti che sono legati. E va ad esprimersi anche in una guerra in realtà che continua ad andare avanti, che è la guerra contro l'assimilazione, che hanno voluto, che hanno, una guerra che hanno voluto fare in quell'epoca i Hashmonaim. Contro gli ebrei, altri che erano... Esattamente. Esattamente, e anche che continua oggi. Purtroppo stiamo ancora combattendo contro l'assimilazione. Allora, la storia di Hanukkah, in realtà, storicamente, quando la leggiamo o ce la raccontano, sembra una storiella, è accaduta in qualche mese o un anno e mezzo, in realtà è una storia molto lunga. Cioè la storia legata ai Hashmonaim, ai greci, è una storia che dura dopo i romani. Però diciamo che da quando il re Antioco Seleucida entra nel regno, accede al regno, fino al momento in cui i Hashmonaim hanno riconquistato, diciamo, la zona del Bet HaMikdash e il Bet HaMikdash, sono passati una decina di anni. Una decina di anni. E quindi possiamo dire che bisogna un po' fare un ordine nelle cose, capire qual è esattamente la cronologia, eccetera. Adesso non entriamo in tutta la storia di Hanukkah, però noi, durante la Nerot Hallalu, cioè dopo che abbiamo acceso la Hanukkiah, cantiamo la famosa canzone Ha-Nerot, e lì ringraziamo Akadosh Baruch Hu per Ateshuot, le salvezze, Nissim, miracoli, Niflaot, cosa sono Niflaot? Meraviglie, no? E altri aggettivi che usiamo. Ma questi tre in particolare, c'è un discorso del Rebbe dove dice queste tre indicazioni, questi tre aggettivi che si usano, sono in particolare indicativi di tre aspetti legati a questa festa. Di cosa si tratta? Allora, tornando appunto alla storia, circa 2200, più di 2200 anni fa, il re Antioco IV, che si trovava in Siria, voleva appunto fortificare, rendere più potente il suo regno in tutta la zona del Medio Oriente, e ha creato anche delle leggi, ha fatto delle leggi che davano la possibilità di creare praticamente un'unica cultura in tutta la zona. Ok? Quindi c'era anche un discorso di non solamente regno o governo a livello politico unito, ma anche cercava di consolidare questa cosa attraverso un'unica identità culturale. E ovviamente attraverso questa mossa cercare di limitare la possibilità o le aperture di ribellione contro il suo governo, il suo regno. In particolare, per ciò che riguarda l'ebraismo, i decreti erano in particolare su tre aspetti che sono la base, che hanno capito anche loro, sono la base della vita ebraica. E cioè, quali erano queste tre cose? Shabbat, Milah e Rosh Chodesh, esattamente. Shabbat, togli lo Shabbat e l'ebraismo, è un grandissimo danno. Togli la Milah, un altro grandissimo danno alla identità ebraica, e togli il Rosh Chodesh, praticamente togli tutti i modi, cioè togli il calendario ebraico di mezzo, e in questa maniera togli quasi tutta l'identità ebraica con questi tre decreti qua. Qui abbiamo alla fonte numero 2 una citazione di una fonte che si chiama Megillat Antiochus. Non è considerata una Megillah ufficiale, ma è comunque una fonte abbastanza attendibile che si usava in alcune comunità in antichità leggerla a Hanukkah, questa Megillah, questo racconto. E dice, lì c'è scritto, Vayomer le Sarav, che il re Antioco disse ai suoi ministri. Allo yedatem ki yesh am ha-yudim asher birushalayim benenu, riguardo questi ebrei che stanno tra di noi, Gerusalemme, eccetera, che non servono il nostro Dio, cioè i pagani, l'Eloheinu enam makrivim, vedatenu enam osim, non seguono le nostre leggi, umiachalim li yom shivrona melachim vashiltonim, e sperano in un giorno in cui il nostro regno sarà, diciamo, non ci sarà più, veomrim matayim loch aleinu malkeinu, e sperano nel giorno in cui avranno un loro re, dicono quando avremo il nostro re, la nostra indipendenza. Dice il re, Bou venale alehem, andiamo contro di loro, venevatel mehem aberita sher korat lehem, e annulliamo il patto che loro hanno, questo loro patto. In cosa si esprime? Appunto dice queste tre cose, Shabbat, Rosh Chodesh, ve Mila. Oh. Ora, come avete accennato prima, non era solo una cosa esterna, ma queste forze greco-siriane elleniche del re Antioco si unirono agli ebrei ellenisti, cioè gli ebrei assimilati dell'epoca, che si erano assimilati alla cultura ellenica e che erano in realtà l'elite, una gran parte dell'elite del popolo, le persone più abbienti, le persone più educate, quelli che stavano nei salotti importanti, eccetera, si sono uniti a questa diciamo a questa idea di Antioco e i suoi generali. Succede pure adesso. E hanno è il peccato più grande che può esistere. Sì. I primi che si assimilano sono proprio quelli. È pena di morte questa. Ok, andiamo avanti. Hanno praticamente fatto scendere dalla posizione di Kohen Gadol, quello che era il Kohen Gadol dell'epoca, e hanno messo al suo posto un loro burattino, diciamo così, che si chiamava, che si chiamava Menelaus. Menelaus. Menelaus. Questo Menelao non solo era uno corrotto, eccetera, che non, diciamo, non era un degno candidato per essere veramente un Kohen Gadol, un sommo sacerdote, ma non solo, ha anche rubato tutti i tesori del Bet HaMikdash, diciamo la cassa, il tesoro del Bet HaMikdash, e li ha fatti rientrare sotto il tesoro del re di Antioco. Inoltre ci sono state anche altre problematiche. Prima di tutto nel Bet HaMikdash hanno cessato di servire tutto il servizio di Korbanot, che era previsto nella Torah per il Bet HaMikdash, e in quel al posto del quale hanno messo culti pagani. Ma avevano fatto anche sacrifici con animali impuri, vero? Sì, culti pagani erano anche sacrifici, cose che loro facevano. Sì, e hanno praticamente iniziato una campagna di persecuzione contro chi invece rimaneva fedele alla tradizione della Torah e le mitzvot così come era in origine. E così negli anni le cose sono andate sempre peggio, finché, come tutti conoscono la storia, nella zona di Modi'in, non lontano da Gerusalemme, sulle colline, sono arrivati dei soldati di Antioco e hanno messo su un altare improvvisato sul posto e hanno detto a uno di quelli presenti lì, uno degli importanti, che era Matitiau, che lui era un Kohen Gadol prima, il padre di Giuda, il padre dei cosiddetti Maccabei, dei Hashmonaim, e gli ha detto: tu sei obbligato a portare adesso un maiale su questo altare come sacrificio. E ovviamente non era propenso a farlo, e mentre lui in qualche modo cercava di allungare i tempi, un ebreo ellenista assimilato ha detto: no, lo faccio io, e ha sacrificato lui questo, diciamo, questo maiale a quella loro deità, eccetera. Allora Matitiau in quel momento si è preso da uno spirito di ribellione, ma prima di tutto, diciamo, di gelosia, diciamo così, per Hashem, e ha preso subito sul posto la sua spada e ha ucciso questo ebreo. I suoi cinque figli, per loro questo era il segno che è iniziata la ribellione. E questa era la cosa che ha fatto sì che da lì si sarebbe partito con quella campagna militare di ribellione. E sul posto hanno distrutto quell'altare, hanno ucciso molti di quei soldati che erano venuti, eccetera. Allora questo aspetto di quello che ha portato la festa di Hanukkah, cioè questi, diciamo così, piccoli miracoli, no? Salvezze, questo noi chiamiamo nell'Ananisim, nel brano che abbiamo letto, Teshuot, salvezze. C'erano molte piccole salvezze, tipo queste qua. E quando si sono reso conto che questa ribellione era una cosa seria, allora Antioco ha mandato un esercito di 50.000 combattenti per schiacciare la ribellione. Però la guerra di ribellione era una guerra di guerrilla, si dice, una guerriglia, no? Cioè tipo una guerra partigiana che non richiede molti combattenti, ma che è molto efficace contro, appunto, grandi macchine da guerra, come era quella di Antioco. E dalle colline, dalle montagne, facevano queste brevi uscite, piccole battaglie, guerriglia, che era una guerriglia vera e propria, e hanno fatto subire moltissime grandi perdite all'esercito di Antioco. Dopo tre anni, di questo tipo di combattimento, il 24, il giorno 24 di Kislev, è successo il miracolo che nessuno si aspettava, e cioè che l'esercito di Antioco si è ritirato. Si è ritirato, è tornato via da questa zona che è Eretz Israel, almeno di questa parte di Eretz Israel. E questo era da considerare un grandissimo miracolo, in cui i pochi hanno sconfitto i molti, i deboli hanno sconfitto i forti, eccetera. E questo noi lo chiamiamo Nissim. Questo rientra sotto la specificazione che abbiamo letto oggi, miracoli, Nissim. Poi c'era la terza fase. La terza fase era nel momento in cui quello che abbiamo descritto prima nel trattato di Shabbat, che abbiamo citato, tutta la storia del ripristinare il Beit HaMikdash e il servizio del Beit HaMikdash a quello che veramente avrebbe dovuto essere, con l'accensione della menorah e con il ritrovamento di solo il poco olio, eccetera. E lì quella cosa che l'olio è durato il tempo di 8 giorni, questo è Niflaot, le meraviglie. Tra Nissim e Niflaot, Niflaot è considerato ancora più miracoloso, se si può dire. Una cosa pele, proprio in ebraico, pele, meraviglia, è qualcosa di meno naturale ancora del Nes, del miracolo. Che il miracolo, il Nes, cioè per esempio quello che abbiamo detto, la sconfitta militare, comunque si può attribuire anche, diciamo così, a quello che ha fatto l'uomo. Questo però non si può attribuire a quello che ha fatto l'uomo. È proprio un pele al di là della natura, un miracolo totale. Leggiamo questa fonte che tratta, al secondo paragrafo del numero 2, che tratta dall'Likutei Sichot, da un intervento del Rebbe in una delle sue opere che si chiama Likutei Sichot, il 15° volume, e lì c'è scritto in una nota: Shalosh sugei ha'atzalah shayu az. Tre tipi di salvezza che sono avvenuti allora sono allusi, remusim, reme, sono allusi, bamilim, nelle tre parole che abbiamo citato. Teshuot, nisim, veniflaot. Atchalat nitzachon ha'chashmonaim. L'inizio della vittoria dei Hashmonaim è avvenuta, hayetà, ba'ir Modin, nella città di Modin. Che Hashmonaim nilchamu, quando hanno combattuto i Hashmonei, neged, contro che cosa? Akravat davaracher. Davaracher è un eufemismo per dire il maiale, l'altra cosa, davaracher, non si vuole neanche nominare, alla Mizbeach, sull'altare che hanno fatto lì. Vezachu, e hanno meritato in quel momento una Yeshua, una salvezza. Ecco le Teshuot. Però Achairua lo hayan nesgalui opele, non si può definire un miracolo aperto o una meraviglia ciò che è accaduto in quel primo momento, perché non è che c'erano molti soldati e non erano preparati a combatterli, non erano venuti, non pensavano di dover combattere contro qualcuno. Mishum shelo hayusham yevanim rabim, non c'erano lì molti soldati dell'esercito greco-siriano. Questa è la prima fase. Achrize, dopo di ciò, Yatsua Hashmonaim, le Milchama, Mulze, Vaivani Gadol, però dopo sono andati in guerra contro un grande esercito greco, molto più grande di quanto erano loro stessi. Arbeyoter Gadol, Mimispara Yudim Sheamdu Mulam, Vezachul Nes, lì hanno meritato davvero un miracolo. Se le mala menateva che va al di là della natura. È quello che noi recitiamo, ma Sarta, tu a Kadosh Baruch Hu hai dato in mano Giborim, dei forti, Beyad in mano a Chalashim, dei deboli, Verabim e molti, Beyad Meatim, in mano a pochi. Però ancora è un miracolo legato alla natura. Veadain Hayazerak Nes, quindi è definito Nes, miracolo, ma il tipo di miracolo che si chiama Nes, e non velo pele, e non una meraviglia totale. Mishum, poiché Shehayal Nitzachon Milchama, questa vittoria e sconfitta degli ebrei in questa guerra, aveva Eise Achiza Bateva, aveva qualcosa a cui attenersi, a cui legarsi nella natura. Cioè non era totalmente inspiegabile. Si può spiegare, si può trovare anche una razionalizzazione alla serie di eventi che è susseguita a quella ribellione. E quindi noi lo chiamiamo Ness. Nissim. Achar kach, dopo di ciò, הם נכנסו לבית המקדש, sono entrati nel Bet Hamikdash, וזכו e hanno meritato l'annes pach ha-shemen, il miracolo dell'olio. וזה היה בבחינת פלא. Questo già era una meraviglia, qualcosa di inspiegabile. שהוא הפך הטבע לגמרי, che è assolutamente, totalmente il contrario, cioè contro la natura, בלי שום אחיזה בטבע, senza alcuna attinenza, diciamo, soprannaturale completamente. Allora la domanda rimane, allora perché non facciamo qualche seudà? Perché ci accentriamo solo sul miracolo dell'olio e non su altri teshuot e nisim che sono accaduti? Un breve aneddoto che racconta una persona che si chiama Professor Green, è già venuta a mancare pochi anni fa, era un importante professore che lavorava alla NASA, un ebreo americano totalmente assimilato, però abitava nel Minnesota, e al Minnesota è arrivato uno shaliach del Rebbe che si chiama Rav Moshe Feller, che Dio gli dia lunga vita, un chassid pieno di carisma, di dinamismo, e in qualche modo è entrato in contatto con questo professore. Anche perché questo professore era una figura dominante nella comunità ebraica, laica, diciamo, del posto, e quindi ha detto, se riesci, gli dicevano la gente, a Rav Feller, se riesci a entrare un po' nel cuore del professor Green, sicuramente anche molti altri ebrei seguiranno, diciamo, l'esempio. Allora lui ha cercato un appuntamento con lui, ma era molto difficile. Il suo compito per la NASA era quello di, immaginate all'epoca, negli anni 60, di cercare dei segni di vita su Marte. E lui era un esperto di batteri, la ricerca sui batteri, eccetera. Lui lavorava per la NASA all'interno di una base militare americana alla quale non si poteva accedere normalmente, però ogni giorno telefonava Rav Feller per un appuntamento. Alla fine ha detto, vabbè, gli diamoci 15 minuti così ci lascia in pace. Gli ha dato il tempo di un appuntamento di un quarto d'ora. Subito c'era tensione quando si sono incontrati, che lui era uno molto contro, sai, le cose antiche, e voi chassidim, voi siete di un'altra epoca, perché non ti vesti come una persona normale? Proprio c'erano dei toni accesi già da subito. Questo ho raccontato poi lui stesso, il professore. Poi Rav Feller guarda la finestra e dice, sta quasi tramontando il sole, e dice, beh, io adesso devo fare una cosa. Si mette al lato della stanza, si chiude la giacca, si mette e inizia a fare mincha, come se nulla fosse. Io faccio tosta. Lo devi fare, eh? Allora lui è rimasto a bocca aperta, dice, ma cos'è questo comportamento? Se in mezzo a un appuntamento che ci ha messo mesi per averlo, si accorge che deve farmi... Allora subito, senza dire niente, si mette lì nel mio ufficio a pregare. Lui ha concluso la sua tefilà e ha detto, mi scuso, però con tutto rispetto ho prima altri obblighi nei confronti di grandi autorità. È chiaro che questo incontro non è andato bene per niente. Il professore però con il tempo si è calmato da quel ricordo di quello che gli aveva fatto venire quell'incontro, e ha pensato a cosa ha fatto questo Rav. Sapeva che aveva lavorato duro per ottenere l'appuntamento, sapeva che l'importanza dell'appuntamento per il Rav, che è solo venuto in questa zona di Minnesota, che è molto liberale, molto laica, aveva bisogno del suo aiuto per entrare nel cuore delle persone, e comunque non era pronto a sacrificare i suoi principi. Allora quella sera, quando pensava di questo qualche mese dopo, ha detto, cenava con sua moglie, diceva alla moglie: ti ricordi che noi abbiamo letto le storie dei pogrom di Khmelnytsky, che erano i cosacchi in Ucraina nel 1648-50? Abbiamo letto che c'erano ebrei che davanti alla spada, la croce o la spada, hanno accettato la spada. Non volevano perdere la loro fede in Dio anche davanti alla morte. E quando abbiamo letto questa storia, ci eravamo detti, diceva la moglie, ti ricordi che ci eravamo detti che oggigiorno, chi può trovare un ebreo che anche è pronto a pagare un dollaro per mantenere la sua fede, lascia stare e dare la vita? Dice, non esiste più oggi una cosa del genere. Dice, sai cosa? Eravamo in errore, abbiamo fatto un errore. In realtà, qualche mese fa ho incontrato un ebreo così. E gli racconta tutta questa storia del rabbino che era venuto e ha fatto Mincha. Dice, questo qui andrebbe anche nel fuoco, come Abramo, se dovesse essere necessario. La storia del professore Green è che lui poi ha fatto una lunga strada, è rimasto nel suo mestiere, però dopo un certo periodo aveva una barba lunga, una kippah tutto il tempo, sì, e poi si è trasferito in Eretz Israel, era professore all'università di Ben Gurion a Beersheba. E come dicevo, è mancato solo qualche anno fa. Però in ogni caso, quando noi leggiamo la storia, di tutta la nostra lunga e sofferta storia, troviamo una grande differenza tra quello che volevano fare in quel momento i greco-siriani e quello che altri nemici, come abbiamo anche accennato all'inizio. Cioè, non hanno voluto togliere il nostro legame con la terra, non hanno voluto togliere il nostro legame, la nostra presenza fisica, l'annientamento della nostra persona. Al contrario, hanno apprezzato l'ebreo come popolo a livello culturale. Oggi noi vediamo tanti ebrei che sono molto fieri di scienziati e di medici ebrei e Nobel e scrittori, eccetera. Anche gli greco-siriani erano fieri di questo aspetto del popolo ebraico e volevano mantenerlo. Non erano come i nazisti che volevano annientare tutto, o altri, o Haman, eccetera, come moltissimi nella nostra storia. Farò Haman, cioè tutto, sempre parliamo di un annientamento fisico, proprio di cancellare gli ebrei, mai sia dalla faccia della terra. I greco-siriani e questo regno erano molto acculturati, molto educati, molto apprezzavano molto tutto l'aspetto, diciamo, intellettuale, culturale, eccetera. Non hanno neanche distrutto il Beit HaMikdash, hanno solo cambiato la direzione, ma non è che l'hanno distrutto, hanno bruciato come i romani. E non solo, in realtà loro apprezzavano anche la Torah, cioè la saggezza degli ebrei, ma la saggezza tradizionale, quella della Torah, non è che non l'apprezzavano. Vedevano una grande cultura, una grande saggezza in questo. E erano proprio i greci che hanno voluto tradurre la Torah, la famosa traduzione dei 70, e di Tolomeo. Loro hanno lottato contro una cosa sola, cioè la Kedushah della Torah, il fatto che è una cosa sacra, intoccabile, divina. Questa era la loro lotta. Loro non erano pronti ad accettare che per gli ebrei questo documento o questa Torah, questa vita, è diversa da qualsiasi altro documento, da qualsiasi altro libro, da qualsiasi altra cultura o educazione che può essere. Per i greci si poteva anche studiare la Torah, ma così come si studia qualsiasi altra fonte di studio, non come una cosa divina. E quindi non erano pronti ad accettare l'idea che la Torah non è mutabile, non si può cambiare una virgola sulla Torah. La Torah è quella, è la parola di Hashem. Questo non rientrava proprio nel loro schema, nella loro mentalità di come vedevano le cose, come vedevano il mondo. E anche se avessero voluto magari accettare e dire ok, forse questa Torah è più importante di altri documenti, di altri libri, di altre culture, forse è più importante, però che chi la segue è come, diciamo così, uno schiavo, un servo che serve Dio attraverso questo. Che noi siamo sottomessi alla volontà di Hashem come si esprime nella Torah? Questo no. Cioè tu accetti una cosa perché ha senso, non perché accetti il giogo di qualcuno. E noi accettiamo il giogo del regno divino. Quando diciamo lo Shemai accettiamo la presenza e l'autorevolezza e l'autorità di HaKadosh Baruch Hu attraverso la Torah. Quando abbiamo letto la storia nel Talmud che abbiamo citato, che hanno voluto rendere impuro tutto l'olio che era presente nel Beit HaMikdash e li hanno resi impuri, perché cosa vuol dire reso impuro? Se volevano togliere di mezzo tutto il culto della Menorah, potevano togliere l'olio, versarlo, romperlo, distruggerlo, bruciarlo. Cos'è questo rendere impuro? Che significato aveva per loro? È una cosa molto strana se ci pensiamo. Esatto, e poi alachicamente si poteva pure. Timu Hashemanim Shebahechal, si dice, abbiamo letto, cioè hanno reso impuro gli oli che si trovavano nell'Echal e quelli che stavano nel magazzino? Cioè, si specifica l'Echal, il Beit HaMikdash. E quello che dicevamo prima, non erano contro l'accensione della menorah, per dire. Erano contro l'idea che c'è qualcosa di puro e qualcosa di impuro. Accendi pure, ma che ti importa se lo tocca uno che è impuro? Cosa cambia? Queste sono cose metafisiche che avete accettato come una, che poi tutto il concetto dell'impurità, purezza, è tutto al di là della razionalità, è un chok, è una mitzvah che noi mettiamo in atto solamente perché HaKadosh Baruch Hu l'ha detto nella Torah, non per nessun altro motivo. E allora arrivano delle persone normali, che hanno tanta cultura, razionalità, educazione, e dicono no, questo è puro e questo è impuro, ma che differenza fa? Lo stesso olio! Non ha nessun senso! E questo andava esattamente e precisamente contro la loro idea di cultura, di educazione, di comportamento. Questo era il motivo per cui hanno reso impuro quelli nelle Hal, l'olio che era lì vicino alla menorah, che per l'uso della menorah, volevano che la menorah andasse avanti ma con olio impuro. Non c'è scritto che sono andati nei magazzini dove c'erano le botti di olio che arrivava e che si conservava, lì l'hanno reso impuro. No, quelli che stanno nelle Hal, proprio quelli destinati subito all'accensione, devono essere impuri. Nello specifico. Era un modo di, diciamo, sfregiare quel sentimento di si fa quello che ci fa piacere fare, che ha senso, che ci porta a qualche tipo di compiacimento, non così, alla cieca, ha detto la Torah. Non esiste. Era pure una dimostrazione per tutti quelli che volevano far convertire, di fargli cambiare il credo, no? Cioè? Dimostrare che vedi, si accende ugualmente, non cambia niente, non succede niente. Che vuol dire convertire? Il loro intento era quello di far convertire tanti, no, assimilare, no. Di assimilare, ah, ok, non è conversione, no, mi sono sbagliato, no, conversione di assimilare, ah, ok, quindi sì sì, è come era come un trucco, ti dimostro che le cose vanno avanti anche se, vero. Allora la sfida che avevano gli ebrei, in particolare i Hashmoneim, che hanno preso, diciamo, in mano la situazione, era una sfida molto più complicata di quella che può essere una guerra fisica, dove si può definire il nemico e si può cercare di lottare. Questa è una guerra filosofica, che è molto più complicato e molto meno chiaro come sfida. L'hanno fatto uguali in attesa. Beh, quella è stata molto fisica. Loro sono andati fino alla fine. I Hashmonaim sono andati fino alla fine, nel senso che hanno detto anche su una cosa così complicata, che è una guerra filosofica, che è un nemico di, diciamo, che si presenta come un nemico filosofico, sono andati fino alla fine con la forza dell'eternità della fede in Hashem e della Torah. Non si muove. Solo su questo. E questo dimostra che non si può toccare una virgola della Torah. La forza della Torah, se possiamo così dire, è tale da pervadere completamente tutta la persona, tutto il carattere della persona, affinché, con cosa? Con la luce divina che c'è nella Torah, finché la persona può sentire la Kedushah che c'è nella Torah. Una persona che si apre a quella luce può anche sentirla, e una volta la sente non è pronta più a rinunciare, anche alla faccia di qualsiasi tipo di nemico. E allora citiamo il numero 3, sempre da un'altra fonte, ma sempre nel Likutei Sichot del Rebbe, che dice anche un'altra esattezza nella preghiera di Al HaNisim che noi recitiamo, molto interessante. Dice Hammatara, cioè lo scopo shel gzerot ha-yevanim, dei decreti dei greci, era le'ashkicham toratecha, di fare dimenticare toratecha, non la Torah, ma la tua Torah. Ule avirà mechukei rezzonecha, si fa riferimento ai chukim, agli statuti della volontà divina, senza altro motivo, cioè di far dimenticare gli ebrei che la tua la Torah è, non è solo una Torah, è la Torah di Hashem, toratecha. Vetchukei rezzonecha, le mitzvot sono le mitzvot volute da lui, e non dei buoni consigli che hanno senso. Cioè la divinità è tale, occuce la Torah, cioè le malame a sechel, che è al di là della razionalità. E mischimu le limud kaze shemiyaches la Torah chokhma vesechel. Erano d'accordo che si studiasse la Torah come un altro regime di studio intellettuale, razionale. Achitnagdu lekach, ma si misero contro l'idea she yehudim mekaimim et Torah bekabalat ol, che noi invece mettiamo in atto la Torah accettandolo come un gioco. Le loshum avana, anche le cose che non capiamo, nelle quali non c'è alcuna comprensione umana, è solamente perché verrak biglal shekach tziva Hashem. Questo è il volere di Hashem. Leke lachen, e per questo motivo imtimeu et hashemanim, per questo motivo hanno reso impuro l'olio, ve lo shafchotam, non è che li hanno fatti perdere, li hanno versati via. Cioè, come se avessero detto, non c'è problema, accendete pure la menorah. Emloit nagdule etzem adlakata menorah, ela lechukea tumma veatara shem naalim mikol sechno. Non erano contro la menorah, erano contro le leggi di purezza, di tumma veatara, di impurità, di che non hanno alcuna fonte nella razionalità umana. Ecco che possiamo capire perché la festa di Hanukkah si occupa più del miracolo dell'olio che della sconfitta materiale, perché non c'era in realtà una minaccia contro la nostra vita. Se avessimo fatto, se fossimo rientrati nella loro idea di cultura, non c'era nessun pericolo di perdere la nostra vita. L'identità sì, però. Esattamente, l'identità, l'aspetto spirituale, questa era la cosa per la quale loro, contro la quale loro minacciavano. E per questo anche il modo di festeggiare Hanukkah è in più spirituale rispetto a quel modo che noi, al modo in cui festeggiamo le altre festività. Questa è una fonte del secondo Rebbe Admur HaEmtzai, il Rebbe Dov Ber, il secondo Rebbe di Lubavitch, in un libro che lui ha scritto che si chiama Sha'are Ora, che è una spiegazione mistica delle feste di Hanukkah e Purim. E sulla sezione di Hanukkah lui scrive così: Ikara Nes, la parte più importante del miracolo, haya be'achazarat Torah u'mitzvot lehem, era nel fatto che sono tornati nella possibilità di rientrare nella Torah e nelle mitzvot. Questa era la minaccia. Kiratzu ha'amim, i popoli di quell'epoca volevano l'ashkicham toratecha, come abbiamo citato prima, fare dimenticare la Torah, velo le abdam, non di annientare il popolo, ma di togliere la Torah, l'aspetto irrazionale, diciamo così, della Torah, sovrarazionale. Velachena su ikara nes bimtziat Hashem la Torah. Ecco perché i maestri hanno fissato hanno spiegato che la parte più essenziale del miracolo è nel trovare l'olio puro, che rappresenta, c'è un messamel, che simboleggia, et nitzachona or di Torah mitzvot, che simboleggia la vincita della luce della Torah e le mitzvot. Come detto, che katuv ki ner mitzvah ve Torah or, il libro di Mishlei dice la mitzvah è paragonata a un lume e la Torah ad una luce, ad un'illuminazione. E quindi i maestri, nel non fissare questi giorni come giorni di mishte, di banchetto, a differenza di Purim, come abbiamo visto nelle altre modim, c'è la mitzvah della Seuda, qui non c'è veramente quella mitzvah, perché hanno voluto sottolineare, forse i Chachamim, che l'aspetto più importante di questa festa è l'aspetto spirituale, l'aspetto di luce. Non so se è introspettivo, perché deve essere, la luce deve andare verso l'esterno, al petach beitomi bachutz, è per illuminare anche l'esterno. Però introspettivo forse nel senso non fisico ma spirituale, no? Sì, nel senso che praticamente diciamo che la causa di quello che è successo, poi dei miracoli, cioè, ricade su di noi per quello che non avevamo fatto prima. In quel senso. Ok. In realtà c'è una fonte, il Levush, che è l'ultima fonte citata qui, una fonte di Halakha, che spiega sull'opera del Tur, c'è cioè il Levush che dice lo bikshu mehem, in realtà loro i nemici non hanno chiesto dagli ebrei Ela, se non che le ha'aviram al datam, di farli andare contro la loro religione, le loro regole. Lachen, per questo motivo lo che va umela le hallel u le hodot bitzura, cioè una cosa spirituale, hanno i chachamim istituito che devono essere giorni di lode e ringraziamento. Non hanno aggiunto le parole Yemei Mishte, giorni di festeggiamento nel senso materiale come a Purim o altre feste. Esatto, però lui fa subito la distinzione con Purim. Aval bimei Haman, ma ai tempi di Haman c'è Yeta Hagzera, che lì invece il decreto qual era? Le Ashmide Tagufot, di annientare il corpo, cioè le persone fisiche. Shiesh Bob Mitul Mishte Vesimcha, cioè se si annientassero fisicamente non potrebbero ovviamente festeggiare in maniera fisica, allora quando ci siamo salvati da quell'annientamento è giusto festeggiare con il corpo, che ce ne tzlumi menu kavule alol shabkhoi de mishtev simcha, che è la gioia e la contentezza attraverso il cibo e la seudà. Qui il miracolo è spirituale e anche il festeggiamento è più spirituale. Ecco perché si parla molto nelle fonti e nell'osservanza di Hanukkah, si parla dell'olio, del trovare l'olio e la menorah e l'accensione della Hanukkah con l'olio e la frittura di molti cibi nell'olio, eccetera, eccetera. Sicuramente c'erano molte altre cose nel Beit HaMikdash che hanno reso impuro e dovevano rimpiazzare in maniera pura. Tutto il Mizbeach era stato messo in Genizah, che non poteva più essere usato. Tutto il Mizbeach dovevano costruire uno nuovo, e così anche gli altri strumenti e altri aspetti del Beit HaMikdash, perché proprio parliamo tanto dell'olio e non delle altre cose. Non si mescola. Allora ci sono tante metafore nell'olio, ma la Gemara dice nel trattato di Menachot che l'olio è un'allusione alla Chochmah, la saggezza. E la Gemara porta diverse storie che indicano il legame tra l'olio e la saggezza. Se è così, diciamo che questa ricorrenza qua... Scusa, solamente concludo. L'olio e la saggezza, che vuol dire? Vuol dire che noi possiamo in questo trovare un altro aspetto profondo di quello dell'olio durante questa festa. Quello di rendere impuro l'olio è come se avessero detto: vogliamo rendere impura la vostra saggezza, la vostra Torah. Cioè la Torah va bene, però non servono tutti gli accorgimenti divini, l'aspetto sovrarazionale, purezza, impurità nel concetto della Torah. E quindi quando noi parliamo del miracolo dell'olio, parliamo di quella saggezza, di quella Torah che rimane pura, che non può essere contaminata, che non può essere in alcun modo impura, tra virgolette. E quindi la Hanukkah è forse questo il motivo per cui, come ricordavamo in altre lezioni, Hanukkah è l'unica mitzvah che proprio nello Shulchan Aruch, nella base delle cose e nel comportamento di tutti gli ebrei, la si mette in atto secondo la maniera più ideale di metterla in atto, che si chiama mehadrin min ha mehadrin, hidur, l'abbellimento della mitzvah, che diventa doppiamente più bello, cioè l'idea di accendere una candela la prima sera, o le due la seconda, fino ad arrivare a 8, in realtà non era quello la mitzvah originale, cioè che hanno istituito di accendere ogni sera una candela e così ricordare il miracolo e festeggiare Hanukkah. Come in tutte le mitzvot c'è hidur mitzvah, l'abbellimento della mitzvah, cioè per esempio puoi comprare una mezuzah che costa 50 euro, puoi comprare una più bella che costa 100 euro, e quello hidur, l'abbellimento, è di per sé una mitzvah, ma una cosa volontaria, chi può e chi vuole lo fa, chi non c'è obbligo. Hanukkah è come se ci fosse un obbligo. Tutti gli ebrei, ed è scritto nel Shulchan Aruch, che questo è il modo in cui si accende la menorah. Come per dire, il miracolo stesso non serviva. L'olio c'era, si poteva accendere, però non era olio puro. Abbiamo insistito che vogliamo olio puro. Anche qui andiamo anche nell'osservanza dell'olio nostro di Hanukkah, andiamo oltre quello che è richiesto dall'Halakha e facciamo il massimo possibile che si può fare, cioè indica il sacrificio che un ebreo è pronto a fare per le mitzvot e per la Torah. Come fecero i Hashmonaim in quel momento, che erano pronti a sacrificarsi non solamente per ciò che era assolutamente richiesto, ma anche per ciò che era per l'abbellimento, per l'in più, diciamo, di quello che la Torah richiede, proprio per sottolineare che il nostro legame con questo non dipende dalla nostra comprensione, dipende dalla volontà di HaKadosh Baruch Hu, ok? Rezonecha, Toratecha è la tua Torah. E quindi abbiamo meritato questa grande mitzvah, questa grande luce di Hanukkah che i maestri dicono, lo scrive anche il Ramban, Nachmanide, sulla parasha di Baalot Echa, che i lumi del Bet HaMikdash, anche se oggi il Bet HaMikdash è distrutto, i lumi del Bet HaMikdash continuano ad illuminare attraverso i lumi di Hanukkah. L'chaim, l'chaim, che sia un buon Hanukkah Sameach a tutti quanti. Posso dire la mia un attimo? Kazak, adesso un